s'io credesse per morto essere scarco del pensiero amoroso che m'atterra, con le mie mani avrei già posto in terra queste mie membra noiose e quello in carco. Ma perché io temo che sarebbe un varco di pianto in pianto ed una in altra guerra, di qua dal passo ancor che mi si serra, mezzo rimango lasso e mezzo il varco, tempo ben fora ormai d'avere spinto l'ultimo stral, la dispietata corda nell'altro il sangue già bagnato e tinto, nell'altro il sangue già bagnato e tinto. E io ne prego amore e quella sorda che mi lasciò dei suoi color dipinto, e di chiamarmi a se non le ricorda, e di chiamarmi a se non le ricorda. Se io credesse per morte essere scarco del pensiero amoroso che m'atterra, con le mie mani avrei già posto in terra queste mie membra noiose e quello in carco. Ma perché io temo che sarebbe un varco di pianto in pianto ed una in altra guerra, di qua dal passo ancor che mi si serra, mezzo rimango lasso in mezzo il varco, tempo ben fora ormai d'avere spinto l'ultimo stral, la dispietata corda nell'altro il sangue già bagnato e tinto, nell'altro il sangue già bagnato e tinto. E io ne prego amore e quella sorda che mi lasciò dei suoi color dipinto, e di chiamarmi se non le ricorda, e di chiamarmi se non le ricorda. Se io credesse per morte essere scarco del pensiero amoroso che m'atterra, con le mie mani avrei già posto in terra queste mie membra noiose e quello in carco. Con le mie mani avrei già posto in terra queste mie membra noiose e quello in carco.